È un movimento sociale basato sul motto vita, donna, libertà, che è diventato diffuso in tutti gli atenei, i licei, le strade iraniane. In questi ultimi giorni si sono uniti alla protesta i mercanti del bazar che hanno scioperato in alcune città, quindi evidentemente si tratta di un movimento che si sta radicando e che è più grande rispetto ai movimenti degli ultimi anni, quello per il caro vita del 2018-2019 o quello del 2009, cioè l'onda verde contro la rielezione di Ahmadinejad. E i giovani e le giovani iraniane, anche gli adolescenti, le adolescenti iraniane stanno veramente facendo di tutto. La prima richiesta è stata la fine dell'hijab obbligatorio e adesso si è passati alla morte del dittatore, quindi alla richiesta di un più generale cambiamento di regime in Iran. Ci sono delle manifestazioni che sono spontanee ma anche organizzate, soprattutto attraverso Telegram e le chat in cui i giovani si danno appuntamento in luoghi specifici delle città iraniane. Alcune immagini sono veramente straordinarie, di girotondi, i ragazzi che si tolgono il velo, camminano per le strade, i marciapiedi iraniani, quindi è una protesta che sta prendendo sempre più piede. Addirittura ci sono delle frasi che vengono riportate anche all'interno del bazar, tutti si chiedono se è possibile, ci sono dei sondaggi che dicono che oltre l'83% degli iraniani non è soddisfatto nel sistema politico, quindi è evidente che c'è poi anche una solidarietà trasversale che coinvolge gli sportivi iraniani, le attrici iraniane che si tolgono il velo per chiedere più diritti per le donne iraniane. C'è stata una partecipazione dei lavoratori, soprattutto dei precari, all'interno dell'industria petrolchimica e questo ha portato anche ad un'estensione delle proteste nel mondo del lavoro. Non abbiamo ancora la partecipazione di massa che c'era nel 79, però veramente il movimento sta prendendo piede. Ci sono stati tanti arresti, ci sono centinaia di morti secondo le fonti che abbiamo, e che c'è anche la prima condanna a morte di un attivista che ha partecipato alle proteste. Tra i tanti leader della protesta sta emergendo il ruolo dei sindacati studenteschi che stanno organizzando le manifestazioni all'interno degli atenei. Pensiamo all'università Sharif, per esempio, dove giovani e giovani iraniane vivono quotidianamente separati e dove invece si organizzano picnic perché i ragazzi iraniani vogliono vivere misti e quindi vogliono vivere la quotidianità dell'ateneo insieme, studenti e studentesse. Però dall'altra parte i mullah faticano a reagire a queste ondate di proteste. C'è questa tendenza a colpire il turbante dei religiosi, a farlo cadere, più in generale a parlare dei mullah come delle figure che sono ormai fanno crescere un sentimento antireligioso, anche se in realtà molti riformisti, pensiamo a Mohammad Khatami, pensiamo a Hossein Mousavi, Karoubi, che sono agli arresti domiciliari, ma in generale il movimento riformista ha espresso solidarietà e in qualche modo ha parlato di possibilità che collassi il sistema sociale dopo le proteste. Però dall'altra parte c'è anche una fetta di establishment religioso che si è sempre detto contrario alla commistione tra religione e politica. Pensiamo alle figure di Ayatollah che erano vicine ad Ali Montazeri e adesso hanno scritto una dichiarazione nelle città sante di Qom e Isfahan, appunto solidarizzando con i movimenti. Quindi ci sono tanti punti che ci fanno pensare che il movimento sta crescendo e può avere sempre più successo all'interno dell'establishment, del sistema, cambiare le cose in Iran dopo 43 anni di Repubblica Islamica. Dall'altra parte c'è anche la possibilità che si proceda passo dopo passo, che ci sia una riforma graduale, che anche se per adesso questa strada è molto difficile da percorrere, il sistema post-rivoluzionario si è dimostrato difficile da riformare dall'interno. Poi ci sono a queste da aggiungere delle dinamiche geopolitiche che sono di grande interesse, che riguardano direttamente il fatto che l'Iran si trova al centro di un conflitto che è quello della guerra in Ucraina. Questo ha portato un resa dei conti all'interno del sistema tra l'elite religiosa e l'elite militare dei Pasdaran. Ricordiamo l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e i Pasdaran, che in questa fase probabilmente stanno acquistando molto potere rispetto all'elite religiosa. È evidente che ci sono accuse incrociate che riguardano l'Ucraina e Israele, che parlano di forniture di armamenti, droni Shahed 136, tecnologie addestramento all'esercito russo da parte iraniana. Questo ha portato a una crisi diplomatica tra Kiev e Teheran e all'approvazione di nuove sanzioni mirate da parte dell'Unione Europea a politici e imprese iraniane. Per settimane il ministro degli esteri iraniano ha negato qualsiasi tipo di collaborazione, poi ha confermato l'invio di materiale bellico a Mosca, però dicendo che questo è avvenuto solo prima dell'inizio della guerra e aggiungendo che Teheran non resterebbe indifferente di fronte a prove più sostanziali di uso di droni iraniani da parte russa nel conflitto. È evidente che questo potrebbe portare ad un coinvolgimento dell'Iran nel conflitto conflitto, e quindi la sovrapposizione completa della posizione iraniana su quella russa potrebbe essere veramente a detrimento degli interessi iraniani, che già hanno subito la fine dell'accordo sul nucleare con la cancellazione dei colloqui a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Dall'altra parte gli Stati Uniti hanno accusato Mosca di aiutare il governo iraniano nella repressione delle mobilitazioni, ci sono prove che questi droni addirittura sono stati fabbricati nei quartieri generali iraniani fuori la capitale Damasco e quindi in Siria, quindi è evidente che l'ostacolo delle dinamiche geopolitiche al successo del conflitto sta polarizzando la società iraniana, per cui chi sostiene gli ayatollah è sempre più pro-russo e sostiene le posizioni di Mosca, mentre i giovani che protestano sono sempre più vicini agli ucraini, e c'è questo parallelo che evidentemente fa temere, anche perché l'Iran sa bene che può essere facilmente manipolato. È successo nel 1953 con il colpo di Stato che ha destituito Mossadegh, e quindi l'Iran teme molto, gli iraniani temono molto di essere manipolati dalle potenze regionali e internazionali.